A noi sembrano misure da azzeccagarbugli, nel senso che si va veramente a cercare delle soluzioni che prima di tutto sono di brevissimo termine, quindi assolutamente focalizzate sulla contingenza e senza nessuna capacità di sguardo di lungo termine. E soprattutto sono misure che non risolvono nulla, nel senso che il prezzo del gas è in continuo aumento e si guardano già i prezzi futuri del gas che sono sempre più alti, per cui se anche con questo tipo di misure nell'immediato il governo dovesse riuscire a trovare dei fondi per, diciamo, calmierare un po' l'aumento dei costi delle bollette, in realtà tra poco il problema si ripresenterà, per cui a noi sembra ci sia un'assoluta assenza di lungimiranza e anche un attaccamento spasmodico all'utilizzo del gas, per cui immaginare di tagliare gli incentivi alle rinnovabili e di aumentare le estrazioni di gas sul territorio nazionale, immaginando, non lo so, di fare che cosa, forse di utilizzare quel gas per riempire le riserve e nel frattempo rivendersi altro gas che abbiamo negli stoccaggi, veramente non è chiaro che cosa stia cercando di fare il governo, ma non ci sembra andare nell'unica direzione che invece forse avrebbero dovuto seguire, cioè quella di cercare di ridurre la nostra dipendenza dal gas, quindi ridurre i consumi dove possibile e il più possibile cercare di favorire invece la transizione alle rinnovabili. Questo sembra assolutamente fuori dallo spettro di pensiero di questo governo. Proprio Cingolani in apertura, in realtà in premessa, aveva detto che è necessario accelerare sulle rinnovabili, però il taglio agli incentivi non è in contraddizione? Assolutamente sì, è in assoluta contraddizione, ma nella lettura di Cingolani il gas è rinnovabile, quindi forse la sua ratio è questa. Tra l'altro una delle altre misure che ha annunciato è proprio l'aumento della produzione di gas, però insomma non con nuove trivelle ma dagli impianti già in vigore, ma questo, come dire, può rappresentare un aiuto all'autosostentamento dell'Italia? Sinceramente faccio fatica a vedere questo aiuto e ripeto, forse si cerca di giocare su delle differenze di prezzo proprio attuali, proprio di oggi, ma nel lungo termine non sembra una misura assolutamente logica, diciamo, se il problema è la dipendenza dal gas che l'Italia ha molto più di altri paesi all'interno dell'Unione Europea, è su questo che bisogna lavorare, quindi uscire dal gas fossile sia per ragioni di sostenibilità e anche di impegni presi dal nostro governo, ma ancora di più vista questa tendenza di aumento del costo del gas che poi genera un aumento a caduta, diciamo, sul costo delle bollette e anche su tutto il resto, quella sarebbe la prima cosa da affrontare. Nessuna delle misure presentate ieri ci sembra andare in questa direzione. In definitiva, il governo non sembra avere una strategia. E sembra essere una strategia un po' di cercare di mettere delle pezze dove è possibile, ma assolutamente questo tipo di misure ci metteranno in una situazione tra pochi mesi di difficoltà in cui il governo sarà costretto a ripensare ad altre misure. Nel frattempo noi continueremo ad avere il nostro problema principale, cioè che nel nostro mix energetico noi siamo tra i paesi più dipendenti dal gas e quindi chiaramente soffriamo più di altri all'interno dell'Unione Europea degli aumenti del costo di questo combustibile fossile. Per cui questo emerge da tutti i documenti finora pubblicati dai vari consigli sull'energia che si sono svolti negli ultimi mesi e quindi, diciamo, una mente lungimirante o un approccio lungimirante di governo complessivo avrebbe dovuto dire: ragazzi, questo è il nostro problema. Invece questo assolutamente non è successo.